Mi spiace affliggervi con un argomento che è stato trattato proprio appena adesso, proprio su queste frequenze, ma è un problema di cui mi occupo da troppo tempo per non dirvi la mia. Perché il Presidente del Consiglio a uno dei suoi alleati che si rammaricava in Parlamento per la decisione governativa di stanziare quella bazzeccola di 1.200 miliardi a favore della scuola privata, ha risposto che la storia va avanti. E ad analoghi argomenti ha ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione in occasione di non ricordo più quale dibattito televisivo. La storia va avanti, ha detto, fa piazza pulita di problemi obsoleti e di polemiche ormai senza significato, e ostinarsi a difendere i postulati dello Stato laico, quelli per cui le chiese, con tutto il rispetto dovuto, sono delle organizzazioni sostanzialmente private che debbono essere libere di svolgere le proprie funzioni, figuriamoci, ma non possono pretendere a tal fine l'appoggio di quello che una volta si chiamava il braccio secolare, che anzi ha preciso dovere di vigilare perché nessuna di esse prevarichi la libertà di coscienza dei cittadini, ostinarsi a difendere questi postulati significa soltanto coltivare una propria personale fissazione, indulgere a un anticlericalismo fuori del tempo. Chi si ostina a farlo, più che combattuto, va ignorato e soprattutto compatito. Io credo che nessuno di voi possa sfuggire come questo tipo di argomentazione è tale per cui con esso si può sostenere praticamente di tutto. La storia va sempre avanti, nel senso che finora nessuno è riuscito ad invertire la direzione del tempo e tutto quello che resta indietro è per definizione superato. Basta conferire a queste ovvie metafore spaziali un valore e il gioco è fatto. Ma le ovvietà restano ovvietà. Dire che la storia va avanti non è molto diverso che dire che è meglio essere vivi che morti, o nel caso che chi vince ha sempre ragione. Da Lima e Berlinguer appartengono a una tradizione che non ha mai annesso particolare importanza alle tematiche laiciste e naturalmente hanno una quantità di gatte da pelare. Per restare in selva dipendono dal voto dei popolari e dei gladiatori e hanno bisogno della benevolenza dei vescovi, a partire da quello di Roma, che si sa una certa influenza nel paese la esercita. Per cui hanno deciso di comperarsi quel voto e quella benevolenza al prezzo in fondo tutt'altro che esagerato di 1.200 miliardi. È vero che i finanziamenti alla scuola privata sono esclusi dalla Costituzione, ma anche la Costituzione è stata scritta qualche anno fa e può considerarsi a pieno titolo superata. Sembra tuttavia che l'argomento, nonostante la sua esaustività, non convinca fino in fondo nemmeno loro. Infatti ne hanno elaborato un altro, che il Ministro della Pubblica Istruzione ha largamente diffuso nella settimana testé trascorsa, tra l'altro con l'intervista alla nostra radio che abbiamo da poco risentito. Nessuno, ha spiegato, intende violare la Costituzione. Quei soldi non andranno, non andranno alle scuole private, andranno agli studenti bisognosi in nome del diritto allo studio per permettervi di affrontare le spese dell'istruzione, e se qualcuno di loro se ne vorrà servire per pagare le rette delle scuole, dei preti e delle suore, non glielo si potrà certo impedire, no? Il diritto allo studio è il diritto allo studio, ognuno può decidere a piacer suo in quale sede esercitarlo. In un paese in cui l'istruzione pubblica notoriamente è gratuita in ogni ordine e grado, se non lo è dovrebbe esserlo, e questo secondo argomento è straordinariamente capzioso. Non riesce a nascondere l'ovvia verità per cui quei quattrini comunque escono dalle casse dello Stato e comunque finiranno in quelle del clero. E allora ce n'è un terzo, eccone pronto un terzo. Anche le scuole del clero, ci siamo sentiti spiegare in questi giorni, sono pubbliche. Sono aperte a chiunque voglia frequentarle, esercitano quindi una funzione pubblica, anzi una benefica funzione di supplenza alle manchevolezze di uno Stato che con tutta la sua buona volontà non può assicurare a ciascuno la scuola che fa per lui. E forse a questo punto sarebbe il caso di pregare il Presidente del Consiglio, il Ministro della Pubblica Istruzione, il loro portavoce, il Cicoda Vari, di smetterla di dire asinate. Perché è qui che sta precisamente il problema del finanziamento alle scuole private. In fondo, un articolo della Costituzione si può sempre abrogare, o modificare, o interpretare creativamente, anche se quest'ultima soluzione non è certo correttissima, non ce ne scandalizzeremmo più di tanto. Ma io credo che dovremmo scandalizzarci, e non poco, all'idea di affidare a una chiesa o a più chiese una funzione di supplenza pubblica. perché non scherziamo. Le chiese non sono tenute a garantire la libertà di coscienza dei loro adepti. Quando gestiscono delle scuole non lo fanno per amore disinteressato della cultura. Il loro progetto educativo, di fatto, prevede immancabilmente l'impiego di insegnanti selezionati in base a criteri di omogeneità ideologica, con il fine ovvio dichiarato di imporre agli studenti la stessa omogeneità. Si può discutere a lungo se questo sia lecito e ammissibile in una società pluralista, in cui il confronto e la libera scelta tra opzioni ideologiche diverse dovrebbero essere considerati valori fondamentali, ma è poco ma sicuro che non può trattarsi di un progetto che riguarda l'intera comunità. Pretendere di realizzarlo a spese pubbliche, non con i quattrini di chi non lo condivide, ma anzi è destinato a essere danneggiato, conculcato, ideologicamente oppresso, è chiedere veramente troppo. Sarà una fissazione, ma con il rispetto per il ministro, è una fissazione a cui continuiamo a essere affezionati.